Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Marco Buticchi, autore di La voce del destino, pubblicato da Longanesi. Il nome di Marco Buticchi è spesso associato a quello di Wilbur Smith, perché è considerato un po' il Wilbur Smith all'italiana, insomma, il mago dell'avventura e del mistero. Innanzitutto, Buticchi, le piace questo confronto con Wilbur Smith? I paragoni sono sempre lusinghieri in ogni caso, e sono paragoni non da poco quelli con uno tra i più grandi scrittori d'avventura mai esistito. Mi piacerebbe se, soprattutto in Italia, qualcuno un giorno dicesse: Buticchi scrive come Buticchi. Quello sarebbe una grande... Non lo dico per con spocchiosità, proprio. Lo dico perché mi piacerebbe che un giorno la nostra nazione riconoscesse i meriti dei conterranei. O magari qualcuno scrive come Buticchi, insomma, l'hai preso come metro di paragone. A quel punto vuol dire che sono diventato davvero vecchio, quindi non mi piace più tanto. Ecco, lei però ha venduto comunque circa 1 milione di copie con i suoi libri, quindi insomma è uno scrittore decisamente di successo. Come vive questo ruolo? Va di bene che se incominciassi a pensare che devo scrivere per vendere oppure per accattivare nuovi lettori, non mi divertirei più. E la prima cosa che secondo me sente il lettore quando apre le pagine di un romanzo è se lo scrittore si è divertito oppure no. Nel patto che si crea tra lettore e scrittore ci vuole una franchezza estrema, perché altrimenti il lettore è primo ad annusare le cose che non funzionano. Il lettore è la persona, il giudice più severo che ci sia, non concede appelli. Se ne sbagli uno, sei uno scrittore finito. Che rapporto ha lei con i lettori? Le scrivono, le dicono qualcosa sui libri, per esempio? A me piace molto il contatto con la gente, andare a raccontare le cose, raccontare le storie che mi hanno fatto inventare un romanzo. Sì, sono subissato da mail al quale rispondo una a una, perché se uno ha perso il proprio tempo nel leggermi, io qualcosa la devo perdere per scrivergli. Veniamo subito però a questo romanzo. I protagonisti sono un po' i protagonisti seriali dei suoi romanzi: Sara Terracini e l'ex agente del Mossad Oswald Braille. Vogliamo ricordare un po' chi sono questi due personaggi? Oswald Braille mi serviva un protagonista diverso, cioè quindi non un grande 007 bellissimo, ai tante. Mi serviva un uomo, allora ho pensato a meno che un uomo, quindi Oswald è un nano, è affetto da nanismo. Immaginiamoci quanta fatica deve aver fatto un nano per diventare primo ministro di Israele, capo del Mossad, vice ministro della difesa, quindi una persona che ha fatto carriera in una delle zone più calde del mondo. Sara invece è una donna bellissima, è una mediterranea, una studiosa, una scienziata che conosce i segreti di qualsiasi lingua antica, e hanno fatto coppia. Come si sono incontrati? Come hanno creato questa coppia di investigatori, diciamo? C'è questa scintilla che sta per scoccare per 4-5 romanzi, quindi in fondo si amano, ma una persona intelligente come Oswald dice: guarda, ahimè, tu sei talmente diversa da me che l'amore probabilmente diventa una cosa difficile tra di noi. Invece alla fine si convola la nozze, quindi. Ecco, che tipo di rapporto c'è fra i due nel momento in cui devono, diciamo, investigare sulle cose, scoprire i misteri e così via? Profonda collaborazione e stima. In questo caso, in questo libro, hanno a che fare con un'anziana senza tetto, che in realtà è tutto tranne essere appunto una cosiddetta barbona, cioè ha un passato misterioso e molto particolare. Beh, lei pensi, vedo questa signora a Parigi, mi attraversa la strada ed è una senza tetto, però non ha il fare da clochard, ma ha un passo austero, ha uno sguardo fiero, la vedi che ha avuto un passato che è diverso dal vivere ai margini della società. E me ne innamoro, e nel tornare in macchina da Parigi a casa le invento una storia quasi per passare il tempo, e dico: ma che cosa faceva? Insomma, io non sono un patito della lirica, però creo questa figura della cantante più grande del mondo, la cantante più grande di ogni tempo. E allora incomincio a dire: beh, ma 80 anni fa, nel posto dove lei è vissuto, che scopro essere nella mia mente il Sud America, chi può aver visto? E creo un legame tra questa donna e la donna più importante del nostro secolo, una delle più importanti, ma comunque di grande carisma, Eva Perón. E allora da lì incomincio a indagare sui segreti di questa Argentina del dopoguerra, nel scopo delle belle. Ecco, a proposito di scoprire delle belle, ovviamente non sveliamo tutto, però c'è anche a che fare con il nazismo in questo libro, con una teoria particolare, cioè quella secondo la quale Hitler non sarebbe morto a Berlino, ma sarebbe morto in Argentina nel 62. Beh, incidentalmente, pochi giorni dopo che esce questo romanzo, ma è già capitato altre volte, un giorno Corrado Augias mi chiese: come facciamo noi scrittori a prevenire il futuro? Io risposi che il futuro è nell'aria, basta saperlo annusare e avere il coraggio di descriverlo. Dalle maglie di questa rete molto grossa, di un'Europa in festa perché di un mondo in festa perché la guerra era finita, sono sfuggiti tutti i pesci più grossi. Noi abbiamo catturato soltanto quelli piccoli. Lei pensi che si pensa che in Sud America e in Argentina in particolare andarono a finire 50.000, non sono pochi, 50.000 criminali di guerra tra ustascia, nazisti e fascisti. Ecco, io penso che oggi qualcuno i conti con la storia, ormai ci ha pensato il tempo a farli fuori, ma penso che qualcuno oggi i conti con la storia li debba fare. Se non altro per dare, ma non parlo da scrittore d'avventura, parlo da padre di figlie, se non altro per dare un futuro, cioè soltanto se noi abbiamo una certezza di un passato riusciamo a dare un futuro ai nostri giovani. Ecco, ma quanto è credibile questa teoria che anche Hitler sia fra quelli, insomma, che si erano rifugiati in Argentina? È credibile quanto l'attualità ci suggerisce, ovvero noi abbiamo cercato per 20 anni il signor Bin Laden, distruggendo un paese, 45 mi sembra dei nostri ragazzi sono andati a morire in Afghanistan per cercare Bin Laden. Quando lo abbiamo trovato, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo buttato il corpo in mare. Nessuno di noi ha la certezza che quello che abbiamo buttato in mare fosse davvero Bin Laden. Nello stesso modo, i gerarchi nazisti, gli artefici del genocidio, venivano seppelliti in posti nascosti per non alimentare la memoria. Ma neanche per dare a me la certezza che quelli erano davvero quelli che hanno creato quel gran macello in Europa negli anni della guerra. Quanto conta nei suoi romanzi questo mix fra fantasia e verosimile o comunque verità storica? Le potrei rispondere come rispose un certo Manzoni Alessandro, un ragazzo che si fa la strada. Gliela dico come si direbbe al bar, ma lui diceva che lo scrittore di romanzo storico deve riuscire a infinocchiare talmente bene il lettore che questo non capisca più dove sta la differenza tra storia e realtà, è fiction romanzesca. Ma per me non è così, tant'è vero che all'inizio dico fino a questo punto è storia, poi da questo punto qua inizia, e alla fine nelle ultime pagine mi sento in dovere, sempre con quel patto con il lettore di estrema apertura, dire: guardate ragazzi, sì è vero, è fiction, però è successo questo e questo e questo e questo, e faccio 8 pagine di eventi storici che sono quelli che poi vanno, spingono uno tra i complimenti più belli che uno può fare e dire: guarda che leggendoti mi è suscitato un interesse, sono andato a rivedermi delle cose, penso che tu abbia ragione. Ecco, quello è uno tra i complimenti più belli che può fare un lettore o uno scrittore. Certo, perché da un romanzo poi può nascere la curiosità di conoscere proprio anche la verità storica. Ma pensi che bello, quindi il tuo interesse non si limita soltanto a quelle pagine, si amplia, questa è la cultura. Ed è, ahimè, la prima cosa che noi vediamo tagliata nei momenti di difficoltà di qualsiasi paese, almeno nel nostro. Quanto tempo lei dedica al documentarsi, appunto, dal punto di vista storico? Un romanzo mi costa 2 anni di lavoro. Un anno è dedicato alla ricerca, un anno è dedicato alla stesura vera e propria. Per quanto riguarda questo romanzo, diceva che è stato il personaggio della clochard che alla fine l'ha ispirato, quella che ha incontrato a Parigi. In genere come nascono le idee dei suoi romanzi? Da folgorazioni, da un semplice, un giorno una suora si alza durante una presentazione e dice: lei è un profeta. Dico: guardi sorella, se si deve cercare qualcuno che lo rappresenti qua in terra, lo cerca un po' più devoto. Mentre esco io incomincio a pensare alla suora, una profezia, e nasce profezia che parla tra le altre cose del terzo mistero di Fatima. Prima che il cardinale Ratzinger lo rivelasse al mondo. C'è uno dei libri fra quelli che ha scritto al quale è più legato, oppure come capita a molti scrittori è l'ultimo che ha partorito? Quello è un buon sistema, un buon messaggio di marketing ormai desueto. Io dico che tutti sono figli miei e tra le mie figlie non è che preferisco una delle due, sono figlie mie entrambe, voglio bene tutte e due. Ognuna ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. E che rapporto invece ha con i suoi personaggi seriali? Ahimè, loro sono inabbandonabili, signora. Io, se per caso volessi abbandonare qualcuno, e non lo metto all'interno del romanzo, dalle prime pagine, mi si siede vicino, incomincia a toccarmi la tastiera, mi soffia il fumo in faccia, mi rompe le scatole finché io non l'ho infilato. E soltanto quando ho dato a lui la parte che desiderava, se ne va, mi lascia in pace. Grazie allora a Marco Buticchi, autore di La voce del destino, pubblicato da Longanesi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.